Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci, buongiorno a voi, sono le 11.09, direi quasi 11.10. In regia la parte tecnica abbiamo Valeria Bernardi, in assistenza Franco Piantanida. Noi siamo pronti con i titoli del nostro sommario, andiamo. La rete che vive insieme a noi, internet. Rilassati con un mantra. Zuppe pronte, guida all'acquisto. Internet mon amour, perché ci piace la rete, cosa cerchiamo, cosa ci dà e come ci ha cambiati. Questi sono gli argomenti che affronteremo oggi insieme a Stefano Gallarini, che è qui in studio con me. Qua, buongiorno. Guerriero, sì. Nonché navigante. Oggi guerriero in modo particolare. In linea con noi abbiamo, direi, uno dei massimi esperti della rete in Italia, che è Marco Montemagno, tra l'altro conduttore a Sky TG24 di Io Reporter. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. E da Roma abbiamo in collegamento con noi il dottor Federico Tognoni. Il dottor Tognoni è uno psichiatra ed è responsabile del primo centro pubblico per curare la dipendenza da internet presso il Policlinico Gemelli di Roma. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, inizierei subito mettendo al lavoro Marco Montemagno, che come esperto di internet ci dà un po' i numeri della rete, perché diciamo tutti, siamo sempre tutti collegati su internet, ma quanti siamo e che caratteristiche ha la persona che si collega ad internet? Come è fatto questo popolo? Ok, allora, ovviamente è un popolo che è molto diversificato, perché sono tante nicchie, tante persone che hanno interessi diversi. In Italia, diciamo, ultimi numeri, più o meno 23 milioni di persone sono connesse. Se guardiamo i posti dove la gente si trova di più in questo momento, si parla sempre di Facebook sui giornali, no? Sì. Che è un posto dove le persone entrano in contatto tra di loro. Sono 12 milioni e mezzo di persone in Italia, 350 milioni di persone nel mondo, cresce a un tasso di 700 mila persone nuove al giorno. Questo per dare qualche numero, oppure pensiamo a YouTube, che è un sito dove si guardano video, 1 miliardo 200 milioni di visualizzazioni di video ogni giorno. Per cui sono numeri molto importanti che fanno capire, insomma, che internet è un fenomeno che è qui per restare. Allora, anch'io voglio darvi un numero molto importante, che è il nostro numero verde, 800 24 00 24, per mettervi in contatto con noi, per parlare insieme a noi e ai nostri esperti della rete di quanto vi dà, di quanto vi toglie, di come ci ha cambiato e soprattutto perché la usate, che cosa cercate. I messaggi al 349 238 6666. Stefano, e noi nella rete possiamo cercare tante cose, ad esempio informazioni. Sì, beh certo, poi con il nostro mestiere la rete è fondamentale. Io ricordo come facevo la radio all'inizio, non si faceva altro che comprare riviste, si ritagliavano le pagine, si mettevano all'interno di alcuni dossier per avere le informazioni. Oggi è tutto molto più semplice. È vero però che questo porta alla stessa informazione. Ormai, per esempio, la notizia, siccome tutti la recuperano dalla rete, la maggioranza, se non ormai la totalità delle persone, la notizia è identica. Per cui quello che succede è che c'è una sorta di globalizzazione della notizia, e questo è già un punto che potrebbe essere discusso. Le notizie, certo, acquistare. Io, per esempio, compro ormai quasi tutto in rete. Sì, perché comunque si risparmia, decisamente. Su internet ci si svaga e si cerca anche amici. Amicizia, Marco? Ma direi assolutamente sì, è un posto che unisce il pianeta. Pensiamo che una coppia su cinque negli Stati Uniti si sposa perché si conosce online, quindi... E in Italia? Oppure divorzia, perché succede in Italia penso saranno più divorzi, grazie. Allora, dottor Tognoni, abbiamo raccolto un pochino di informazioni su quello che su internet si può fare, si cerca di fare. Sicuramente la rete apre, crea possibilità, ma la rete a volte può trasformarsi anche in una gabbia, e d'altronde la nascita del vostro centro lo dimostra. Ma, dottor Tognoni, c'è un problema, almeno. No. Noi siamo abituati ad immaginare che una persona diventi dipendente da una sostanza che con un meccanismo chimico lo uncina. Invece qua parliamo di qualcosa che c'è e non c'è, nel senso che non si può toccare, ma semmai usare. Perché parliamo allora di dipendenza da internet? Perché esistono in genere due, diciamo, livelli di dipendenza: dipendenza da sostanze concrete, da sostanze chimiche come la droga, come noi siamo abituati appunto a sapere, e anche dipendenze comportamentali, come al di là di internet, che comunque rimane uno strumento formidabile di informazione, io sono ovviamente d'accordo su tutto quello che è già stato detto, però esistono anche le dipendenze comportamentali, come oltre a quella da internet anche il gioco d'azzardo, se vogliamo, anche se è una dipendenza sicuramente che ancora non è esplosa e forse non esploderà mai, però in altri paesi ci sono anche centri che curano lo shopping patologico, per cui noi possiamo essere dipendenti anche da comportamenti. In realtà la divisione tra dipendenza da sostanze e dipendenza da comportamenti è fittizia, perché in entrambi i casi l'esito finale, la dinamica di dipendenza patologica, prevede la costituzione di un mondo autistico, di una relazione autistica. Questo avviene sia con l'eroina o con la cocaina, sia in quelle persone che, anziché diciamo aumentare la propria libertà attraverso il web, la perdono fondamentalmente, nel senso perdono qualsiasi alternativa al mondo virtuale, e questo in cronico può causare appunto la costituzione di un mondo autistico. Quando io parlo di mondo autistico parlo di un mondo dove sentiamo di avere tutto sotto controllo, che alimenta un nostro sentimento fisiologico, naturale, che abbiamo tutti, di onnipotenza, che ci fa anche tanto piacere delle volte sentirlo, però poi questo può essere fuorviante, perché ci può allontanare da relazioni condivise, da relazioni più autentiche, da tutto ciò per cui poi vale la pena vivere oltre internet. Stefano? Sì. Ti vedevo annuire. Sì, no, però io sono molto d'accordo. Perché, per esempio, pretendere su Facebook di scrivere quello che stai facendo in quel momento, sono stato in palestra, ho mangiato questo, la domanda è: ma chi può interessare? Quindi è vero che c'è questa sorta di delirio di onnipotenza, cioè pensare di essere importanti per essere presenti, e per qualcuno è proprio fondamentale. Per cui poi la relazione vera, la discussione, faccio un esempio, la discussione su internet è molto semplice, perché il contraddittorio è sempre filtrato. Io ti scrivo una mail oppure scrivo un messaggio e ho una tua risposta, sì, che può essere differita nel tempo o quasi immediata, però non ho lo sguardo, non ho la voce, non ho niente, per cui è tutto fraintendibile da un certo punto di vista, e non si risolve mai, perché ognuno resta sulle proprie posizioni, perché non c'è proprio la sensazione, i rapporti sono fatti di sensazione, quindi è facile invece discutere con una persona, averla davanti agli occhi, ed è quindi più difficile anche relazionarsi e anche discutere. Allora non si accetta più questo e si preferisce invece filtrarsi attraverso le parole di un messaggio, e questo è un problema ovviamente. Allora chiediamo subito anche il parere, il conforto, il confronto dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24, ma dottor Tognoni, io vorrei chiedere anche ai nostri amici di descriverci internet con un'immagine o un'associazione. Una specie di internet per me è come... Magari riusciamo, grazie al suo aiuto, a dare anche qualche dettaglio in più della nostra relazione con internet. Ci sta, dottore? Sì, anche perché la comunicazione per immagini è una comunicazione preverbale, nel senso che i bambini comunicano, hanno delle immagini mentali prima di riuscire a parlare, per cui è anche antecedente alla formazione della coscienza, diciamo. Per cui questo significa che dà voce a quello che è la zona dell'inconscio che sta dentro di noi, che in genere è l'unica diciamo zona della nostra mente che dice sempre la verità, per cui non posso che essere d'accordo. Marco, allora iniziamo da te. Internet per Marco Montemagno, uno dei più grandi esperti di rete, è? Premesso che secondo me internet fa bene alla salute, quindi questo è un concetto che vorrei lanciare. Allora, per te è un toccasana. Assolutamente. E poi ci sono molte distinzioni da fare: se lo usi per lavoro, sei sempre connesso, insomma, quindi ci sono mille ragionamenti da fare. Dammi un'immagine, internet però. Internet sono le persone, non è una tecnologia, internet sono le persone. Allora, questo è il parere di Marco Montemagno, vuoi aggiungere? No, sì, io sono d'accordo con Marco, e per me è Giove. Io me lo immagino così, bello pacioccone su una nuvoletta che sa tutto. e vede tutto. Capito? Intanto il dottor Tognoni segna e vi farà un profilo 800 24 0024 se volete scriverci, associare internet ad un'immagine o raccontarci come e perché lo utilizzate, e se questo vi dà piacere, se vi uncina, se vi crea delle possibilità nuove, se vi ha cambiato in meglio, in peggio. 349 238 6666, questo è il numero per inviarci i vostri messaggi. Una mela al giorno. La settimana scorsa abbiamo parlato di rabbia e torniamo a farlo perché molti di voi, direi moltissimi, ci hanno scritto chiedendoci aiuto su come gestire questa emozione. Allora, in trasmissione i nostri esperti hanno suggerito l'attività fisica. Noi oggi vogliamo fare un passetto in più e suggerirvi anche un esercizio yoga unito ad un mantra. In linea con noi abbiamo un insegnante di yoga, Benedetta Spada. Ciao Benedetta, benvenuta. Ciao Nicoletta. La rabbia cresce a mano che i nostri pensieri di paura, di stress, di svalutazione si alimentano, ed è un automatismo mutevole che si sviluppa nel momento in cui c'è qualcosa appunto che ci spaventa, che ci svaluta, che ci fa arrabbiare. La nostra mente si ferma lì, e quindi lo yoga cosa vuol proporre in questo caso? Vuole sostituire a questi pensieri fissi e svalutanti magari un pensiero invece positivo. E come fa? Attraverso appunto un mantra. Noi sappiamo, i nostri ascoltatori magari sapranno, che il mantra non è altro che una frase da ripetere costantemente, anche semplicemente mentalmente, posta l'attenzione. Quindi la nostra mente si sposta su un pensiero positivo, e quindi anche quella rabbia che magari monta, tende un po' a scemare. Benedetta, d'altronde si dice, quando uno è arrabbiato, non scoppiare, conta fino a 10. Esatto, ecco. È un po' questo. E noi contiamo fino a 10 quest'oggi proponendo questo mantra, molto semplice, noto per essere il Jivamukti mantra: Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Che andiamo a ripetere o mentalmente ad ogni espiro con un minimo di 10 volte, oppure anche ad alta voce, sempre nell'espirazione, lo ripeto: Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Il significato è molto bello e significa che ogni essere sia in pace e in libertà. E poi ricordiamo anche l'attenzione sul respiro, perché la respirazione, quando siamo arrabbiati o in un attacco di panico, diventa subito molto veloce, infatti spesso si va anche in iperventilazione. L'attenzione al respiro, un respiro calmo, regolare, aiuta anche in questo caso a decongestionare. Benedetta, se non riusciamo a memorizzare il mantra, ricordo che però, come sempre, potete riascoltare le puntate di Essere Benessere andando sul sito. Noi contiamo fino a 10 e respiriamo. Possiamo, esatto. Possiamo renderla più... È un'ottima variabile anche questa. Benedetta, vogliamo però occuparci anche di chi non si arrabbia spesso e riesce a gestire la rabbia, insomma il cuor contento, proprio un esercizio rapido. È un esercizio che semplicemente ci alleggerisce mentalmente e fisicamente, ovunque noi siamo, su una sedia, in macchina, anche in piedi o davanti alla scrivania. Noi possiamo allungare un po' tutta la muscolatura prendendo consapevolezza del nostro respiro. Inspiriamo profondamente, solleviamo le braccia al di là del capo e una mano afferra il polso dell'altra, stiriamo proprio come se qualcuno ci portasse su, come se ci volessimo allungare verso l'alto, e poi con una espirazione lasciamo cadere completamente le braccia e smogliamo anche tutta la muscolatura. Anche qui lo facciamo 10 volte. È un esercizio che si fa spesso anche alla mattina per alcuni, magari in maniera del tutto naturale, spontanea, ma fatto magari dopo un pranzo un pochino in eccesso, dopo magari una giornata di festa, anche di gioia, ma comunque stancante, aiuta semplicemente a riprendere contatto con il nostro corpo, perché ricordiamoci che poi il nostro benessere e anche la capacità di gestire rabbia e stress è proprio quando noi ci conosciamo e ci ascoltiamo. Benedetta, grazie per essere stata con noi. Proveremo sia il mantra che l'esercizio. Buona giornata, Benedetta. Altrettanto, auguri. Pronto soccorso. Eccoci, siamo tornati ad occuparci del tema del giorno, Internet Mon Amour, così vogliamo chiamare, come dare sottotitolo alla nostra puntata di oggi. Stefano, tu hai detto Giove, Internet per me è come Giove. Dottor Tognoni, devo preoccuparmi? No, penso proprio di no. Perché Stefano è per me è un carissimo amico, per cui ci tengo in modo particolare. No, sto tranquilla. No, direi che può anche non preoccuparsi in questo caso. Allora, Internet è la grande mela, che ci scrive un ascoltatore, che dà tutte le risposte. Sembra esagerato, ma è proprio così. Sta poi a noi saperlo usare, come il responso della Sibilla. Dottor Tognoni. Va benissimo, perché diciamo che lo è anche per me. Anch'io navigo su Internet e posso vedere su YouTube delle cose che altrimenti non avrei mai visto. Le persone che si ammalano su Internet sono molto diverse da questo tipo di profilo. Sono ragazzi che magari vanno a dormire alle 6 del pomeriggio per potersi svegliare alle 3 e giocare al gioco di ruolo che hanno, voglio dire, dove sono coinvolti. Per cui sono situazioni dove c'è un'alterazione del sonno, dove c'è un abbandono magari della scuola, che è una cosa diversa da quello che io stesso faccio attraverso Internet. Io voglio leggervi, i messaggi stanno veramente, ne arrivano tantissimi, si vede che questo gioco dell'associazione stimola, aiuta. Internet per me è come un distributore automatico di desideri. In rete trovo le informazioni che i media tradizionali non mi danno, ma al contrario nascondono o travisano. Internet è come un enorme buffet dove si prende anche quello di cui potremmo fare a meno, ci scrive Cesare. Oppure con Pier Antonio ci scrive: per me Internet è come il mare. E io tornerei a quanto ci ha raccontato Marco Montemagno, ha detto: Internet, secondo me è molto importante, sono le persone, vero Marco? Sì, scusa, io ti ho dato del tu subito, ma so che tra voi, no? Tra voi che navigate vi date del tuo, sbaglio? Sì, assolutamente. Quindi mi sono allargata, ecco. Internet sono le persone, anche perché l'idea dell'isolamento non esiste più con Internet. È come quando nel 1500 si diceva che le donne non dovevano leggere i libri perché sennò si isolavano e le famiglie andavano a rotoli. Allora c'è la stessa idea oggi. All'inizio Internet era qualcosa che ti isolava, oggi invece sono persone connesse tra di loro. Do solo un dato. Sì. Obama ha vinto le elezioni, è diventato presidente degli Stati Uniti perché è riuscito a portare tramite Internet delle persone fisicamente a votare, creato un movimento molto reale, molto concreto. Quindi se uno la vede da questo punto di vista capisce che beh, lo stesso Beppe Grillo, con la tecnologia è molto a che fare con i rapporti personali. Allora, prima di chiedere al dottor Tognoni, che cosa capita nella nostra testa quando ci colleghiamo ad Internet, quando navighiamo, perché immagino che capiti qualcosa di diverso rispetto a quando leggiamo un libro o vediamo la TV. Voglio salutare Guglielmo che ci chiama da Genova e subito dopo Franco da Torino. Guglielmo, buongiorno. Buongiorno, grazie e complimenti per la trasmissione. Premetto, è dal 91 che sono connesso in rete, quella della rete di oggi. Prima c'era ancora un po' il Commodore. Sì. Io faccio un lavoro che tra le 9:30 del mattino e le 9:30 della sera, le 21:30, mi porta a stare davanti a un computer per lavoro. Per lavoro, anche se un accessorio del lavoro, quindi mail, visita di siti di concorrenti e cose del genere. Poi non lo chiudo nemmeno il mio Apple, lo porto direttamente a casa così dove c'è una rete wifi, premetto che sono separato, e lì lo utilizzo per fare la ricerca tipo su Mythic, su trovare magari delle situazioni, magari di compagnia di gentildonne, quello inteso come situazione corretta, intendo dire. Sì. Quindi lei quando dice, scusi Guglielmo, quando lei dice sono in rete dal 1990 è sempre in rete, non lo spegne mai? È sempre connesso? Beh, diciamo che l'unico momento che mi concedo per non essere connesso fino a un po' di tempo fa era quando chiudevo e andavo in vacanza. Ora c'ho l'iPhone e quindi anche lì va bene. Siamo sempre online, come si suol dire. Senta, Guglielmo, questo le fa piacere? Evidentemente sì. Ha provato mai a stare un giorno senza connettersi? Certamente, certamente, però quando arrivo alla fine della giornata sto pensando che ho perso magari qualche contatto. Guglielmo, sentiamo rapidamente il parere del... No, non vuole Valeria. Dottor Tognoni, Valeria Bernardi mi dice giustamente che ci sono i mercati, ma mi dica una mezza parola su Guglielmo da Genova, che ci ha raccontato una vita connessa, no? sì, che se l'esito finale dell'uso del computer per lui è quello poi di incontrare magari una ragazza conosciuta attraverso internet, ma di incontrarla realmente è una cosa assolutamente sana. Tenete presente che dei ragazzi che noi abbiamo cominciato a visitare nel nostro ambulatorio, quasi nessuno la ragazza, e il fatto di sentirla solo nominare, quando in anamnesi si chiede se una persona, un giovane, ha una relazione affettiva, crea disagio. Nel senso che le persone che poi si rivolgono a noi sono in realtà molto diverse, sono persone che non ci arrivano neanche all'ipotesi di incontrare una persona dal vivo, che magari non reggono un rossore, sì, o non reggono la comunicazione non verbale, che hanno un rapporto con l'emotività molto diverso. Ben venga internet se aumenta, come di fatto fa, la possibilità. Infatti, come diceva Marco, internet sono le persone. 800 24 00 24, Franco da Torino viene con noi a sentire Mercati e il Meteo, poi torniamo insieme, andremo a capire insieme al dottor Tognoni che cosa capita nel nostro cervello quando ci colleghiamo a internet, magari attiva, no, processi che in altro modo sarebbero rimasti spenti. Voilà, siamo tornati insieme a Marco Montemagno, conduttore Sky TG24 di Io Reporter, grandissimo esperto di internet, il nostro guerriero navigante, il mio amico Stefano Gallarini, e in linea con noi abbiamo il dottor Federico Tognoni, che è psichiatra responsabile del primo ambulatorio pubblico al Policlinico Gemelli di Roma. Vi voglio leggere alcune delle associazioni. Questo giochino, dottor Tognoni, è piaciuto molto. Ci scrive Antonello da Roma: internet è una grande mamma perché lo vivo come un'altra casa. Ugo da Rovigo: un supermercato sempre aperto, infatti mi collego a intervalli regolari per controllare la mia posta. È il cuore pulsante dell'informazione, Andrea da Como. Per Giancarlo, una piazza dove il tempo vola. Per Giovanni, una specie di bar sport virtuale, anche se non sempre si dice la verità. Dottor Tognoni, di queste associazioni, quale come psichiatra, come esperto di dipendenze, come esperto di quello che a noi, non vorrei usare dipendenze perché so che Marco Montemagno, poi Marco, tu mi hai detto prima della trasmissione, poi noi non vogliamo mettere sulla griglia internet, vogliamo capire come ci cambia anche in positivo. Ma dottor Tognoni, che cosa l'ha colpita di più di queste associazioni? Ma io penso che di essere sostanzialmente d'accordo, non vedo niente di patologico in quello che lei mi ha detto. I veri dipendenti da internet, perlomeno quelli che io ho imparato a conoscere dall'apertura di questo ambulatorio, probabilmente in questo momento la radio non l'ascoltano, probabilmente stanno dormendo perché hanno giocato tutta la notte, oppure stanno facendo altro, nel senso che deve passare che il concetto di dipendenza patologica, perché esistono poi per fortuna anche le dipendenze sane nella vita, sì, e ne abbiamo tutti molto bisogno, il concetto di dipendenza patologica riguarda quelle persone che di fatto non fanno altro, che non hanno più un'alternativa al vivere reale, tra virgolette, al vivere concreto, diciamo. Le cose che lei mi ha letto fondamentalmente fanno parte è un rapporto di una sano, zona sana. Certo. Mi pare proprio di sì. Senta, dottore, ci dice che cosa funziona, che cosa scatta nel nostro cervello quando ci colleghiamo ad internet? Magari non lo sa neanche Marco Montemagno questo. Così no, gli fa... ma... No, ma io per primo non so un sacco di cose, imparo tutti i giorni dai miei pazienti. Quello che è abbastanza evidente, ma è evidente anche su di me quando navigo, che diciamo l'innescarsi quasi di uno stato dissociativo, di un contesto autistico, nel senso la percezione del tempo e dello spazio dopo una mezz'oretta di navigazione un pochino è alterata, tant'è vero che a tutti noi capita poi di vedere l'orologio e vedere che è passato molto più tempo di quello che noi ci aspettavamo che fosse passato. Di fatto la navigazione cronica su internet, più che smuovere delle operazioni mentali latenti dentro di noi, può rinforzare dei tratti premorbosi, nel senso che deve passare il messaggio che internet di per sé non è uno strumento patologico, però può rinforzare dei tratti prepatologici che erano latenti e che attraverso internet trovano l'occasione di una maggiore risonanza. Ma di per sé internet per definizione non può far ammalare nessuno, può aggravare delle situazioni, per cui può per esempio aumentare le dinamiche paranoidee, il bisogno di controllare gli altri. Questo spesso avviene attraverso i social network, dove tanti ragazzi sotto mentite spoglie magari contattano il proprio partner amoroso fingendosi un'altra persona per tastarne la fedeltà. Sì. E allora, dato che a noi tutti piace più o meno essere seduttivi o comunque fare delle fantasie in questo senso, perché ne abbiamo proprio bisogno e non c'è niente di male, però il fatto che il nostro partner poi ne è consapevole innesca nella sua mente poi una serie di dinamiche legate al controllo o quasi una relazione affettiva sotto traccia rispetto a quella, diciamo, ufficiale, e questo non aiuta a vivere meglio. No, anzi, più si cerca di capire la mente degli altri più ci si perde. Stefano. Sì, no, c'è un aneddoto carino, c'è successo una notizia di ieri, ho letto ieri, è successo qualche giorno fa a Roma, una moglie si è finta il marito che non era iscritto a Facebook, lei invece si è iscritta a Facebook facendo finta di essere marito, quindi ha messo la foto del marito, dei suoi, e quindi è riuscita ovviamente a contattare tutti gli amici d'infanzia e anche quelli attuali del marito iscritti a Facebook, spacciandosi per lui, e così è riuscita a capire tutto quello che fa il marito, quindi ha saputo che ha avuto delle relazioni extraconiugali, dagli amici l'ha saputo, gli amici di lui, perché gli amici pensavano di parlare con lui, e quindi poi si sono separati. Adesso c'è una causa in corso, ovviamente, perché c'è la violazione di privacy, eccetera. È successo anche a me. Una persona si è iscritta in un social network fingendosi me. Quindi, insomma, sono cose che succedono. Quindi è vero che poi chi ha già patologicamente questa volontà di controllare tutto e tutti, attraverso internet trova uno strumento che può, insomma, aiutarlo in questo senso. Andiamo a Torino, ci aspetta Franco. Buongiorno, Franco. Franco? Buongiorno, lei sta viaggiando? Sì, no, ma siamo da Rimini, non da Torino. Ah, bene, va, è uguale però, stia attento. Franco, cosa vuole raccontarci? Ah, guarda, io ho ascoltato la sua trasmissione molto volentieri, l'ascolto sempre quando viaggio. Bravo. No, guarda, ho 70 anni e proprio mi fa compagnia. Volevo soltanto dire i lati positivi che vedevo io e qualcuno negativo di internet. Sì. Per me, per esempio, mi diverto molto a leggere i quotidiani online quando, nelle ore serali, pomeridiane tarde o anche dopo cena, perché se non faccio in tempo a leggere, per esempio il mattino quando si ha voglia di leggere notizie sul giornale, beh, insomma, te le ritrovi con calma la sera. Questo per me è un vero piacere, ma più oltre a questo si può commentare gli articoli, perché ci sono tutti i forum, sì. E quindi si va in comunicazione con il giornalista, con altre persone che leggono quel quotidiano, quindi è veramente un momento di rilassamento, e alla mia età le dirò che mi fa ragionare, mi fa riflettere. È una bella palestra, Franco. È una bella palestra. Allora, guardi. Franco, per lei un altro consiglio di Marco Montemagno. Marco, Franco è il navigatore, proprio un prototipo di navigatore, ha 70 anni e continua a essere collegato con le informazioni, e questo comunque lo aiuta. Ecco, no, intanto scusatemi, è straordinario finalmente, abbia 70 anni e sì, usi però anche internet, perché tanti invece si rifiutano, perché dicono una cosa, secondo noi invece è semplicissimo, e ormai gli anziani, grazie al ma cielo, lo usano. Ma anche Marco porta gli anziani su internet, vero Marco? Sì. A parte che ha 70 anni, insomma, anziano. Beh, insomma, va bene, oltre Marco. La metà. Poi appunto a me piace molto, ho fatto un intervento di recente sul tema appunto internet e persone che hanno vissuto di più, no? Perché uno poi non anziano, i senior, ecco, loro, diversamente giovani, come si amano definire. Quello mi piace meno, però vabbè. Perché alla fine, secondo me, l'aspetto interessante è questo: chi ha vissuto di più ha molte più competenze rispetto a chi ha vissuto meno in molti settori, e quando approccia questo mondo che è internet, che non è più solo uno strumento ma è proprio un mondo fatto di rapporti, di tecnica, di contatti, di siti, sono tante cose, a quel punto può mettere a frutto la sua esperienza e creare magari dei progetti nuovi o delle iniziative nuove. C'è un nonnino simpaticissimo su YouTube che è molto famoso, che ogni giorno racconta le sue esperienze di tutta la sua vita, ed è seguitissimo, fa questi video dove parla della sua vita ed è straordinario. Oppure c'è una signora che fa delle ricette di cucina molto forti, si riprende in video e le comunica, le trasmette. Quindi si può fare di tutto, dal business ai rapporti, a creare un'associazione Io credo molto nelle persone che hanno appunto più esperienze, che hanno vissuto di più, perché poi quando incontrano internet è un modo straordinario. Certo, sì. E io invito anche il dottor Tognoni, lei deve andare su Facebook, su YouTube, da qualche parte, perché arrivano tantissimi messaggi proprio rivolti a lei per complimentarsi, dottore, per la sua chiarezza. E soprattutto io penso anche per la sua moderazione, insomma è un giudice super partes, no? Di solito ci si aspetta che uno psichiatra che cura la dipendenza da internet veda ovunque, no, il pericolo. Invece devo dire che dottor Tognoni, promosso dagli ascoltatori di Essere Benessere. Ivan ci chiama da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, salve, buongiorno, ottima trasmissione, salve. Senta, io chiamavo solo per porre l'accento anche sull'aspetto, diciamo, possibilmente negativo di internet. Mi è sembrato che dai messaggi che ho letto, o comunque da alcuni commenti, sì, sia quasi una valle verde dove splende sempre il sole. Invece, sono uno di quegli utenti che purtroppo vengono chiamati dagli amici quando ci sono problemi, necessità di consigli, un power user. Sì. Faccio alcuni esempi. Sì, ricordo di un'amica che su un motore di ricerca digita tutta una serie di sintomi e, diciamo, da sola si fa la diagnosi, sì, perché rispondono 300.000 siti che ti dicono: hai questo problema di pressione, eccetera, eccetera, tu hai questa malattia, wow, si preoccupa. Oppure ci sono persone che con molta facilità inseriscono i propri dati personali all'interno di siti o senza verificarne la fonte. O per ultima cosa, ci sono altre persone che, siccome l'hanno letto su internet, allora è sicuramente vero. Mi sembra che ci sia una compressione della nostra capacità di critica da parte di molti utenti che semplicemente, sì, perché c'è, perché esiste, perché si è scritto, usa, è vero. Certo. E questo è preoccupante. Ivan, io la ringrazio per questo spunto e vorrei coinvolgere Stefano. Vuoi dire qualcosa? No, niente, dicevo che io sono assolutamente sono molto d'accordo. Però è vero che questa trasmissione Essere Benessere non ci occupiamo proprio di questo aspetto, noi si aprono milioni di scenari. Però ritorneremo, ecco, grazie agli spunti di Ivan, e vorrei dare la parola a commento di quanto ci ha raccontato Ivan a Marco Montemagno. Marco. È corretto, il punto è questo secondo me, un conto è la dipendenza e, come diceva giustamente il nostro ospite medico col quale anch'io mi complimento per la pacatezza e la saggezza. Dottor Tognoni ha fatto giornata oggi, come si dice, il suo ego è oggi per oggi e anche domani è a posto. Però diciamo, un conto è la dipendenza, quindi sono problemi patologici ed è una cosa, dall'altro lato è una responsabilità e una capacità di usare internet in modo responsabile con anche un'etica nuova, e quindi qui si entra in un altro mondo ed è la capacità anche di capire che cosa è attendibile in rete, cosa non lo è. Internet ha un grande vantaggio che, oltre a poter vedere quali sono le informazioni che hai, le puoi anche verificare, quindi è un fatto che richiede una competenza e una responsabilità. Il commento dell'ascoltatore è corretto perché implica uno sforzo aggiuntivo, non è come la televisione che la guardo e sono passivo, io posso essere attivo e quindi posso entrare nel merito di molte cose. Dottor Tognoni, tempo, lei all'inizio ha parlato di shopping compulsivo. Io so che Stefano Gallarini, possiamo metterlo subito, no, sotto esame, mi racconta che lui risparmia moltissimo tempo perché fa acquisti su internet. Sì, io compro, giusto, quasi tutto su internet, dalla spesa a qualunque cosa, perché risparmi tempo, risparmi soldi. Anche soldi, ecco. Però c'è un rischio. No, un consiglio, nel senso che in effetti quando tu navighi su internet poi una cosa tira l'altra, guardi, vedi, compreresti qualunque cosa. Capisco che chi è patologicamente, cioè che ha un problema patologico sugli acquisti, per cui internet può diventare uno strumento per sfruttare lo shopping compulsivo, e quindi per chi ce l'ha può essere un problema. Il consiglio mio è quello di mettere nel carrello dei desideri, al posto di fare l'acquisto vero e proprio, si spostano, siccome tu nelle pagine puoi creare un tuo carrello dei desideri, quindi inserisci le cose che ti piacciono senza acquistarle, ma sono lì, pronte per essere acquistate in un secondo tempo, ecco, questo secondo tempo aiuta, perché tu poi quando ritornerai su quella pagina per vedere che cosa hai desiderato nei giorni passati, scopri che non ti interessa più e non lo acquisti. Ecco, quindi questo è un piccolo consiglio che posso dare per evitare spese inutili. Dottor Tognoni, che dice? Dico che a tutti piace, poi insomma è anche peculiare della femminilità, il bisogno, il piacere di comprare delle cose. Lo shopping diventa patologico quando è assolutamente finalistico, quando uno compra 10 paia di scarpe in un giorno e non se le metterà mai fondamentalmente. La stessa cosa si può dire per chi ricerca ossessivamente informazioni, nel caso della medicina magari ha qualche spunto ipocondriaco ossessivo, se questa ricerca è afinalistica e non viene mai comprovata dal contatto reale con un medico, il che poi è molto diverso, perché quando noi andiamo a parlare con un medico di base o con un dottore che ci deve curare, nel nostro dialogo è presente per esempio la comunicazione non verbale, il suo sguardo, che dice molto di più delle parole di una persona, nel senso che noi possiamo mentire con le parole, non con gli occhi, per cui un medico sarà ascoltato nella misura in cui il suo sguardo è accogliente e noi abbiamo la reale sensazione che, di essere accolti, non espulsi, ovvero che il medico ci ascolta sul serio. Allora a quel medico gli diamo anche fiducia, ci affidiamo a quel medico. Su internet questo per definizione io penso non possa accadere, perché non c'è il corpo. Per cui abbiamo tutta una serie di sensazioni, ma non di emozioni, e le emozioni sono fondamentali proprio per veicolare dei contenuti all'interno della comunicazione che dicono quasi sempre la verità. Che cosa c'è di più vero di un rossore? Quanto ci mette a nudo il fatto di diventare rossi, e può capitare a tutti, o di un lapsus. E questo diciamo all'interno del web per il momento manca, per il momento, per cui tutto ciò che è afinalistico, che è senza limite, diventa compulsivo e diciamo in cronico può diventare patologico. Allora, dottore, tra l'altro io vorrei, anche se so che scappano i numeri dati per telefono, ricordare i numeri del vostro ambulatorio. Quindi quando arriva il momento di fare una chiacchierata con voi, che siete esperti di dipendenze, ma che potreste quindi dopo un colloquio dire alla persona: internet non è un problema per te, hai un uso magari un po' vivace di internet, ma non sei dipendente, anche solo per rassicurare. Allora, non è la dipendenza da internet, non è proporzionale, o anche l'intossicazione da internet, al tempo che uno ci passa su internet. Primo. È l'investimento mentale che si fa su internet stesso, è molto meno dipendente uno che per lavoro deve stare 10 ore su internet, ma pensa alla partita di calcetto che farà la sera quando stacca di lavorare, di magari invece un artigiano che non lavora col computer, ma pensa tutto il giorno a quando si potrà collegare alla sera per giocare al suo gioco di ruolo e magari stare sveglio fino a tarda notte. Certo. Dottore, io devo dare i numeri del vostro ambulatorio, così vi saluto e chiudo. Giusta, Stefano lo sa che dobbiamo. Allora, i numeri sono 06 30 15 41 22, un po' difficile, oppure 06 30 15 43 32. I nostri centralini però li hanno anche sul sito di Radio 24, cercateli anche sul sito del Policlinico Gemelli. Dottor Tognoni, grazie, è stato veramente un piacere averla in linea con noi. Anche per me, anche per me. Un grazie speciale a Marco Montemagno, come sempre grande divulgatore. Grazie Marco. Grazie a voi, ricordo che internet logora chi non ce l'ha. Allora, Stefano Gallarini me lo bacio con tranquillità, intanto lo vedo in redazione, grazie Stefano. Grazie a te. Appuntamento a domani dopo il GR delle 11, buona giornata da Nicoletta Carbone.